in primo piano. C'è l'economia e la finanza, ma c'è anche molta politica, aperture variegate. Oggi il tempo è poco. Purtroppo perché ci sono tante segnalazioni, intanto la carrellata di titoli veloce, il Sole 24 Ore, euro e borse deboli, corsa all'oro, mentre per Repubblica Maastricht è col nuovo patto, dopo l'euforia giù le borse. E per il Corriere invece l'apertura principale sulla politica italiana è l'inchiesta, un altro ministero nello scandalo. Per la Stampa, via Brown tocca a Cameron, dunque la vicenda britannica. Tutte le case dei ministri per il giornale. Mentre c'è chi sceglie come Libero, aiuto, torna Veltroni per il PD. Insomma, come vedete, non c'è un tema dominante. I giornali, alcuni dei titoli li ho letti, altri li vedremo tra poco, di apertura si orientano un po' autonomamente sulle varie cose. Io vorrei iniziare dalla politica, o meglio dall'inchiesta. Un altro ministero nello scandalo, come detto l'apertura del Corriere della Sera. L'inchiesta è sempre quella per gli appalti al G8. Una casa pagata da Anemone per l'uomo delle infrastrutture. Pagina 5 del Corriere, di che si parla? Di oltre mezzo milione di euro per comprare un appartamento a Ercole in Calza. Potente funzionario del Dicastero delle Infrastrutture. Questa è la nuova gestione e operazione immobiliare che è finita, diciamo, nell'inchiesta dei magistrati dopo la vicenda della casa per il ministro Scajola, l'ex ministro, per il generale della Guardia di Finanza Pittorru. Ora invece, secondo i magistrati, operazione del 7 luglio 2004, sempre fatta secondo i verbali da Anemone, tramite il solito architetto Zampolini, tramite il solito notaio Napoleone, si parla di una casa, appunto, sempre tra l'altro tramite assegni bancari, circolari dell'agenzia Deutsche Bank, in questo caso per 520.000 euro, tutti dati secondo Fiorenza Sarzanini, che ne scrive sul Corriere della Sera, per una casa, una dimora lussuosa in via Emanuele Gianturco 5, composta da 5 camere e servizi, un prezzo finale che supera i 900.000 euro, ma a rogito sarebbero molti meno, per chi? Per appunto la vicenda che riguarda Ercole in Calza, Ministero delle Infrastrutture, che usufruì di questa vicenda quando era consulente con il ministro Lunardi, per la verità, dunque il predecessore, un paio di governi fa. Allora, questa è la nuova, è il nuovo fronte, una casa pagata da Anemone per l'uomo delle infrastrutture. Casa e politici, oggi, come detto, il giornale ci fa l'apertura, le case dei ministri. A dir la verità, riprende un'inchiesta che ha fatto oggi e che il giornale mette a pagina 3, cioè dove vivono i nostri rappresentanti di governo. E qua ci sono un po' le varie cose, le varie possibilità. Mara Carfagna, per esempio, che dice in maniera trasparente: ecco, qui ho acceso un mutuo a tasso fisso di 450.000 euro, pago 4.000 euro al mese, ho comprato una casa a 930.000 euro. Giorgia Meloni: prima abitavo con mia madre, poi in quella zona i prezzi sono troppo alti e dunque ho comprato 50 metri quadri con terrazzo, 370.000 euro. C'è chi in affitto, Roberto Calderoli, 65 metri quadri, non compro casa a Roma perché si deve comprare casa solo dove si vive. La Gelmini paga un affitto dichiarato di 2.500 euro al mese. Sandro Bondi, affitto di 1.800 euro per 75 metri quadri quartiere Prati. Andrea Ronchi, acquistato 18 anni fa 4 camere con doppi servizi al quartiere Appio Latino, donate alla figlia poi nel 2008. C'è chi si tutela per la privacy come Bossi, c'è chi come Sacconi anche per motivi di sicurezza non dico dove sto, mi scusi, risponde così al giornale. Il ministro Sacconi è anche più volte stato minacciato, insomma, con minacce molto, molto pesanti. L'ultima farai la fine di Marco Biagi, dunque per motivi comprensibili ovviamente non dice dove sto. La Vittoria Brambilla: sto in hotel, così come Galan, neo ministro, sto in albergo ancora. Insomma, se volete sapere le case dei ministri, ecco quanto spendono, il giornale fa questo. Ma in realtà questa vicenda della casa, questo nuovo fronte dell'inchiesta, nasconderebbe, secondo Repubblica, ma anche secondo Libero, alcuni timori molto forti da parte del Presidente del Consiglio. L'incubo del Cavaliere, altri ministri nel mirino per farmi fare la fine del 94. Ne scrive Claudio Tito su Repubblica, pagina 15. Eccolo qui, l'incubo di una nuova ondata di provvedimenti giudiziari per colpire l'esecutivo. Da qualche giorno Berlusconi ha ricominciato a fare i conti con lo spettro del 94, col timore di essere disarcionato in corsa, stretto in una tenaglia composta da magistrati politicizzati e poteri forti internazionali. Insomma, la possibilità che l'inchiesta sul G8 possa toccare altri ministri, e già insomma si parla, avete sentito, di un funzionario del Ministero delle Infrastrutture. E poi, scrive Claudio Tito, la recente proposta di Casini del governo di unità nazionale, il movimentismo di Fini, i silenzi di Tremonti, le dichiarazioni di Montezemolo, le disponibilità del PD vengono insomma incastrate in questo puzzle per dire attenzione, non è che c'è un complottone. Tra l'altro Libero in prima pagina con Gianluigi Nuzzi, che è sempre molto informato insomma di quello che bolle anche nel retroscena della politica. Attenzione, i PM di Milano stanno sbirciando i bonifici del Cavaliere agli amici. È una vicenda che ha solo Libero. Si tratta di un conto acceso al Monte Paschi da parte del Presidente del Consiglio, da cui ci sono movimentazioni di donazioni che da anni Berlusconi fa, prestando o regalando somme di una certa consistenza a una cerchia di persone a lui più vicine. Da qui sta per partire, scrive Gianluigi Nuzzi, l'ennesimo tour della Procura di Milano sugli affari del Premier, che da anni appunto eroga dei prestiti a gruppi di amici stando alla causale dei bonifici, una cosa normale per comuni mortali, ma sono bonifici a volte, scrive Libero, di qualche milione di euro, non qualche migliaia di euro. E allora, questi prestiti nelle prossime settimane, scrive Nuzzi, è facile prevedere strumentalizzazioni. Saranno prestiti o qualcos'altro? Perché a Tizio e non a Caio? Come mai un anno sì e l'altro no? Se poi questi soldi magari sono serviti a comprare una casa o chissà cosa, apriti cielo, Berlusconi non poteva non sapere, anzi è complice, anzi è l'istigatore, il gran burattinaio. Insomma, Nuzzi dice attenzione perché stanno curiosando nei bonifici che il presidente del Consiglio Berlusconi fa in questo conto dal Monte Paschi. Questo per quel che riguarda la politica. C'è anche Napolitano che ha detto è penoso svilire l'unità nazionale, e a questo proposito c'è una bella intervista che Aldo Cazzullo fa al ministro Calderoli a pagina 3 del Corriere della Sera. Io alle cerimonie? Prima il sì al federalismo. Se entro il 21 maggio 2011, data prevista per i decreti attuativi del federalismo, ci saranno, sarò felice di partecipare ai festeggiamenti, a una delle cerimonie per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Calderoli ha detto dall'Annunziata, non so se ci andrò, no, all'inaugurazione a Quarto. Ma l'Unità d'Italia oggi non esiste, non è stata fatta né 150 anni fa né il 2 giugno 46, perché le Italie sono due. Anche il più incallito dei meridionalisti riconosce che il nord e il sud sono separati da un divario crescente. E basta razzismo, dice Calderoli, guardate che i relatori della legge sul federalismo sono tutti meridionali, e non creda che sia una coincidenza, abbiamo voluto così per eliminare anche solo l'impressione che il federalismo nuoccia al sud. Oggi l'Italia in realtà non è unita né dal punto di vista economico né di quello costituzionale, dice Calderoli. Poi tutta una spiegazione sul perché secondo lui i costi del federalismo non sono costi che svantaggerebbero una regione rispetto a un'altra. E infine la chiusura. Lei aveva detto di non avere mai pranzato con un romano. Conferma anche adesso che è ministro? Almeno che io sappia, no. Se c'era qualche romano nelle cene con Bossi e Tremonti non me ne sono accorto, ma no, io, sentite Calderoli, io non ho nulla contro i romani normali, contro il popolo, è che non vado nei salotti, sto attento a evitare le frequentazioni serali, il palazzo non mi avrà, Roma non mi ha corrotto, quando me ne sento sfiorato mi ripeto, sei cenere, tornerai cenere. Roberto Calderoli sul Corriere della Sera. La politica è in fermento anche perché rivela Repubblica, che già aveva rivelato qualche tempo fa una inchiesta che sfiorava, coinvolgeva il presidente della regione Sicilia Lombardo, accusato di associazione di aiuto esterno, concorso esterno alla mafia, ora, attenzione, chiesto l'arresto di Lombardo. C'è stata questa fuga di notizie, il rischio, secondo i procuratori che indagano, è di fuga materiale ora di Lombardo, è inquinamento delle prove, dunque hanno chiesto l'arresto di Lombardo, di suo fratello Angelo e anche di due consiglieri regionali siciliani, Fausto Fagone dell'UDC, Giovanni Cristaudo del PDL e il sindaco di Palagonia Francesco Calanducci. Attenzione, perché scrive Repubblica, se il giudice delle indagini preliminari di Catania dovesse accogliere la richiesta d'arresto, la posizione di Lombardo e degli altri indagati è stata esaminata e il presidente finirebbe in carcere perché per lui non è prevista, come per gli altri, nessuna immunità. Agli atti dell'inchiesta che cosa c'è? Lombardo, appunto, accusato di avere preso i voti dalla mafia e poi avere in qualche modo essere stato un traditore, perché dopo essere stato eletto era diventato irraggiungibile, appunto, dai mafiosi. Chiesto l'arresto per il presidente della regione Sicilia Lombardo. PD, il gelo di Bersani su Veltroni, Veltroni che ha lanciato Democratica, ha detto non sarà una corrente ma una scuola di politica, ma Bersani ha detto discussioni poco comprensibili, questo su Repubblica. Per Libero, come detto, il titolo di prima pagina addirittura, aiuto torna Veltroni, vabbè, insomma su Libero ovviamente Mario Giordano è molto critico, il terrore già si sta spargendo nel PD, ma come detto, visto che dobbiamo andare veloci, visto che il tempo corre, non troverete giornale che non dedica ampio spazio all'intervista che Marco Pannella ha rilasciato al settimanale Chi. Uscirà oggi, l'ha fatta questa intervista con il direttore del TG5 Clemente Mimun. Libero la pubblica più o meno tutta in anticipazione. La frase è questa, quella che fa più discutere. Ho avuto 3 o 4 uomini che ho amato, ma non c'è mai stata alcuna gelosia con la mia compagna storica, che è Mirella Parachini e che oggi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera va a intervistare. Dice, ma come? Ma lo sa che il suo uomo, Marco Pannella, ha detto ho amato 4 uomini nella vita? Ma non so niente di questa intervista. Cosa dice Marco? Ah beh sì, ho capito, dice Mirella Parachini. E poi dice, ma sì, sicuramente non so se ce ne siano stati 2, 3, 4, oppure 10, non lo so. So che ce n'è stato uno, questo sì. È stato un uomo molto importante per lui, ma anche per me. Anche dopo, quando è iniziata la mia storia con Marco, insomma, non c'è mai stata gelosia tra noi due, ci raccontavamo le cose, certo, alla fine, dice Mirella Parachini, quando mi raccontava, è chiaro che soffrivo, che ho sofferto lo stesso. Poi Fabrizio Roncone che fa? Vada a Pannella, dice, Pannella, scusi, ma lei ha detto che ha amato 4 uomini. Vabbè, ma allora, primo, io non sapevo che queste mie dichiarazioni sarebbero uscite così presto perché non conosco questo Chi. E di conseguenza non conosco i tempi di pubblicazione. Poi mi ha chiamato prima un altro giornalista e mi fa: ma hai fatto coming out? Ma proprio per niente, gli ho detto, sei un cretino. E perché? E perché tutti dovrebbero sapere che io sono il più grosso frocio italiano dal 72, vale a dire da quando decisi di affrontare certi temi, certi problemi. E poi Pannella addirittura dice questo: figli? No, non ha figli, non ha mai avuto figli, non ha mai pensato a figli, anche se dice ho un forte dubbio su una ragazza che conobbi tanti anni fa, Gabriella. Chissà che non ci sia un cinquantenne in giro che mi somigli fin troppo. Al che Fabrizio Roncone torna dalla compagna storica di Mirella Parachini, che dice: no, scusate, questa storia del figlio segreto non l'ho mai saputa. Ma tenete conto che Marco qualche volta, beh, tende ad esagerare. Vabbè, Pannella, ho amato 3 o 4 uomini, lo trovate dappertutto. Trovate anche molto del piatto dell'economia, come detto l'apertura del Sole 24 Ore, euro e borse deboli, corsa all'oro, insomma dopo l'euforia iniziale, il piano di salvataggio dell'euro è durato solo un giorno, questa euforia dei mercati per il maxi piano di salvataggio, il Sole 24 Ore vi dedica ampie pagine, tra l'altro anche con Dino Pesole che spiega a pagina 7 quella che sarà la manovra allo studio di Tremonti, una manovra modello austerity che prevede il taglio della spesa improduttiva, il recupero di base imponibile attraverso la lotta all'evasione, al sommerso e il sostegno alla produttività. Queste sono le linee che vuole seguire Tremonti e segnala a questo proposito un intervento sull'Unità di Vincenzo Visco, l'ex ministro delle Finanze, a pagina 6, una proposta proprio per superare la crisi, battere l'evasione fiscale. Vincenzo Visco dice: fate sostanzialmente quello che avevamo previsto noi con il governo Prodi, che è stato un po' abbandonato, e l'Unità fa anche questa proposta alternativa, una tassa sui furbi, questo in prima pagina, dicendo sostanzialmente in questo lungo editoriale di Rinaldo Gianola, vale a dire il suo vice direttore, visto che i salari sono i più bassi, tra i più bassi, diamo un po' più di soldi nelle tasche degli operai e tassiamo appunto i furbi. C'è molto di cronaca a partire dal tema del nostro sondaggio, vale a dire dopo l'arresto movimentato con pestaggio di Stefano Gugliotta dopo la partita Roma-Inter, noi vi chiediamo: secondo voi le forze dell'ordine in Italia sono preparate a gestire l'ordine pubblico? Il Fatto Quotidiano in apertura di prima pagina, violenza in divisa, è addirittura il tema principale. A pagina 2 e 3 si ricordano tutti i casi, alcuni drammatici come quello di Federico Aldrovandi, ricordate, a Ferrara, un arresto poi finito con la morte. Oppure persone, Aldo Bianzino entra in carcere sano, muore due giorni dopo, il caso Cucchi ovviamente, Giuseppe Uva, Varese, un caso senza colpevoli, viene fermato a Varese dai carabinieri e poi muore, ma anche Manuel Bonsu, ricordate il ragazzo di colore a Parma, fermato, malmenato, ma il pusher non era lui, i manganelli che fanno male a tutti, violenza in divisa al Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, proprio con un anche editoriale di Luca Telese a dire video pestaggi di Stato, insomma queste immagini che creano sfiducia proprio nelle forze dell'ordine, ma un po' ovunque sui giornali, in carcere senza motivo, non dormo più, parla appunto questo Gugliotta, al quale hanno fatto visita alcuni consiglieri regionali. C'è però il Messaggero per esempio che fa capire: Stefano era nel gruppo degli ultra, dicono alcuni poliziotti, e poi anche un ragazzo che secondo appunto la polizia ha anche dei precedenti, nel 2007 dopo un incidente risultò positivo alla cocaina, a 16 anni fu accusato di rapina. Insomma, il tema però è questo.